Capitolo 4. Andiamo in vacanza? A. Scegliere le nostre vacanze. 1. Ascolta il dialogo. Tommaso, hai tu la mia agenda? Io? No, perché? È sempre qui, sulla scrivania. Ma dov'è? Tommaso, scherzi. Non è divertente. Voglio la mia agenda. Maria, calma. Non so dov'è la tua agenda e non è uno scherzo. Maria? Sì? Dov'è il tuo cellulare? Ma non vedi? È lì, sul tavolo. Ops, e c'è anche la mia agenda. Meno male. Ma perché tanta preoccupazione? Qui ci sono gli indirizzi email degli alberghi in montagna. Ricordi? Voglio prenotare in anticipo le camere per le nostre vacanze. Ma mancano ancora 6 mesi. E allora? Non sei contento? Penso sempre a tutto io. Va bene, va bene. Allora preparo già lo slittino per me e gli sci per te e per Lisa. In garage ci sono anche gli zaini. Il tuo è piccolo piccolo e verde. Il mio è enorme e giallo.